34° canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, 34° canto. Vexilla Regis prodeunt inferni verso di noi. Però dinanzi mira, disse il maestro mio, se tu il discerni. Come quando una grossa nebbia spira, o quando l'emisperio nostro annotta, par di lungi un molin che il vento gira, veder mi parve un tal edificio allotta. Poi ver lo vento mi ristrinsi retro al duca mio, che non lì era altra grotta. Già era, e con paura il metto in metro, là dove l'ombre tutte eran coperte e trasparien come festuca in vetro. Altre sono a giacere, altre stanno erte, quella col capo e quella con le piante, altra com'arco il volto a pie rinverte. Quando noi fummo fatti tanto avante, ch'al mio maestro piacque di mostrarmi la creatura ch'ebbe il bel sembiante, dinanzi mi si tolse e fe ristarmi, ecco dite, dicendo, ed ecco il loco ove convien che di fortezza t'armi. Com'io divenni allor gelato e fioco, nol dimandar, lettor, chi non lo scrivo, però ch'ogne parlar sarebbe poco. Io non morii e non rimasi vivo. Pensa oggimai per te, sai fior d'ingegno, qual io divenni, d'uno e d'altro privo. Lo imperador del doloroso regno, da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia, e più con un gigante io mi convegno, che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggimai quant'esser dee quel tutto ch'a così fatta parte si confaccia. S'el fu sì bel com'egli è ora brutto, e contra il suo fattore alzò le ciglia, ben dee da lui procedere ogni lutto. Oh, quanto parve a me gran maraviglia quand'io vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia, l'altr'eran due che s'aggiugnieno a questa sovresso il mezzo di ciascuna spalla e se giugnieno al loco della cresta. E la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal quali vegnon di là onde il Nilo s'avvalla. Sotto ciascuna uscivan due grandali, quanto si convenia a tanto uccello. Vele di mar non vidio mai cotali. Non avean penne, ma di vipistrello era lor modo, e quelle svolazzava, sì che tre venti si movean da ello. Quindi Cocito tutto s'aggelava. Con sei occhi piangea e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava. Da ogni bocca dirompea coi denti un peccatore a guisa di maciulla, sì che tre ne facea così dolenti. A quel dinanzi il mordere era nulla verso il graffiar, che talvolta la schiena rimanea della pelle tutta brulla. Quell'anima là su ch'a maggior pena, disse il maestro, è Giuda Scariotto, che il capo ha dentro e fuor le gambe mena. Degli altri due c'hanno il capo di sotto, quel che pende dal nero ceffo è bruto, vedi come si storce e non fa motto, e l'altro è Cassio, che par sì men bruto. Ma la notte risurge, e oramai è da partir, che tutto avem veduto. Com'a lui piacque, il collo li avvinghiai, ed el prese di tempo e loco poste. E quando l'ali fuor aperte assai, appigliò sé a le vellute coste, di vello in vello giù discese poscia, tra l folto pelo e le gelate croste. Quando noi fummo là dove la coscia si volge, a punto in sul grosso de l'anche, lo duca, con fatica e con angoscia, volse la testa ov'egli avea le zanche, e aggrappossi al pel com'om che sale, sì che l'inferno i credea tornar anche. Attienti ben, che per cotali scale, disse il maestro, ansando com'uom lasso, conviensi di partir da tanto male. Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso, e puose me in su l'orlo a sedere, appresso porse a me l'accorto passo. Io levai gli occhi e credetti vedere Lucifero, com'io l'avea lasciato, e vidili le gambe in su tenere. E s'io divenni allora travagliato, la gente grossa il pensi, che non vede qual è quel punto ch'io avea passato. Levati su, disse il maestro, in piede. La via è lunga, e il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza riede. Non era camminata di pelagio, là veravam, ma natural burella c'avea mal suolo e di lume disagio. Prima ch'io dell'abisso mi divella, maestro mio, diss'io quando fui dritto, a trarmi d'erro un poco mi favella, ov'è la ghiaccia? E questi com'è fitto sì sottosopra? E come in sì poc'ora da sera a mane ha fatto il sol tragitto? Ed egli a me, tu imagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermo reo che il mondo fora? Di là fosti, cotanto quand'io scesi, quand'io mi volsi, tu passasti il punto al qual si traggon d'ogni parte i pesi, e se or sotto l'emisperio giunto, che è contrapposto a quel che la gran secca coverchia, e sotto il cui colmo consunto fu l'uom che nacque e visse senza pecca, tu hai i piedi in su picciola sfera, che l'altra faccia fa della giudecca. Qui è da man quando di là è sera, e questi, che ne fe scala col pelo, fitto è ancora sì come primera. Da questa parte cadde giù dal cielo, e la terra, che pria di qua si sporse, per paura di lui fe del mar velo, e venne all'emisperio nostro, e forse per fuggir lui lasciò qui loco vuoto, quella ch'appar di qua e su ricorse. Luogo è là giù da Belzebù remoto, tanto quanto la tomba si distende, che non per vista, ma per suono è noto d'un ruscelletto che quivi discende per la buca d'un sasso ch'egli ha roso, col corso che gli avvolge e poco pende. Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, el primo e io secondo, tanto ch'i vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle. Fine dell'inferno.